Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Mi pare che la cosa più bella della domenica sia successa a Bologna, quando a fine primo tempo, informato dal direttore generale Leonardi, Donadoni ha deciso di dire subito a Morrone, capitano, di togliersi la maglia e la fascia e di tornare d'urgenza a Parma, dove il figlioletto di 5 mesi era stato vittima di un malore. La più brutta risale a sabato sera a Bergamo per le intemperanze, chiamiamole così, degli ultra juventini che hanno originato scontri davvero molto aspri, e più tardi vi leggerò la lettera testimonianza ricevuta sin da ieri da uno steward in servizio allo stadio di Bergamo. Comincerei da Donadoni e dal suo breve racconto di quanto accaduto ieri nell'intervallo di Bologna-Parma. Insomma, il bimbo 6 mesi che ha avuto, la mamma era preoccupata, era veramente molto impaurita. Credo che avere di fianco il proprio marito sia la cosa più giusta da fare. Adesso le cose si sono risolte, fortunatamente sta bene, però c'è stato un attimo veramente di paura, di tensione, e questo, insieme, d'accordo con Leonardi, ci ha fatto comunicare al ragazzo che cosa era successo, e gli abbiamo consigliato di farsi la doccia in fretta e di andare. Sembra una cosa molto normale, anzi persino troppo normale per essere raccontata e per avere diciamo l'onore della notizia, o comunque del fatto d'apertura. Non va così invece normalmente, o perlomeno non va così nella maggior parte dei casi, quindi mi pare che questo tocco di umanità meritasse questa segnalazione. Ce ne sono stati altri ieri di carattere completamente diverso, non più così, insomma, di umanità immediata. Delio Rossi si è spinto nel sociale, per esempio. Sapete che una protesta di lavoratori ha causato il ritardato inizio di Cagliari-Fiorentina. Sentiamo come lo ha commentato Delio Rossi. È stata una partita un po' anomala, perché è iniziata per questa protesta degli operai dell'Alcoa, una protesta molto civile, per di più di 500 operai che sono disperati, loro e le loro famiglie, e hanno trovato l'unica maniera, anche in maniera civile, di avere un pizzico d'attenzione, e ci tenevano che io venissi qua a dire che purtroppo questa fabbrica chiude e loro si trovano in mezzo alla strada. Il calcio in senso proprio, il titolo di campione d'inverno alla Juventus, che nel 68% dei casi vuol dire scudetto. La percentuale Juve più o meno rispecchia quella percentuale Juve in dettaglio, più o meno rispetta quello, perché è stata 24 volte campione d'inverno nella sua storia, e in 16 di quelle 24 occasioni ha poi davvero vinto il campionato. Quindi siamo, se non siamo a 68, siamo a 66 periodico per cento. Altre curiosità di Franco Piantanida, molto interessanti. Nessuna squadra nella storia ha mai vinto tanto come la Juve a Bergamo. Sul campo di Bergamo è la 22esima vittoria. Se invece ci spostiamo a Novara, siamo arrivati all'8ª vittoria consecutiva in trasferta del Milan. Ha perso le prime due, Napoli e Juve, e poi le ha vinte tutte, non ha mai pareggiato fuori casa, così come Ibrahimovic non ha mai segnato così tanti gol nella sua storia. È a quota 14, alla pari con col grande vecchio di Natale. Ha già eguagliato i 14 gol dell'intero campionato scorso e ne ha segnati 13 nelle ultime 12 partite. Vabbè, poi c'è la suggestione di questo incrocio Novara-Milan-Novara. L'ultima volta era successo nel gennaio del 56, a Capodanno. Allora si giocava anche a Capodanno. Primo gennaio 56, 4-3 per il Milan, con gol di Ricagni, Schiaffino e doppietta di Nordal che introduce automaticamente lo straordinario primato di Totti, che l'altra sera, sia pure con la complicità del guardalinea e di Antonioli, comunque è arrivato a 211 gol con la maglia della Roma, battendo il record storico di Nordal con la maglia del Milan, che era a 210, e comunque entrando di diritto nella storia dei nostri, una volta di più nella storia dei nostri campionati. A proposito di primati, l'Udinese non aveva mai totalizzato 38 punti nel girone d'andata, e quindi al suo massimo storico. I precedenti erano i 34 di Spalletti nel 2004. E settima vittoria di fila per l'Inter, che e per Ranieri 7 vittorie di fila soltanto nel 2009-2010, in quella grande rimonta rimonta romanista. Poi ce ne saranno altri di numeri. Chi invece non riesce davvero a ingranare è il Napoli, che anche ieri, dopo il pareggio interno con Bologna, ha avuto un'altra mezza delusione a Siena, sia pur rimediando poi alla fine, poteva anche andare peggio, rimediando con un gran gol di testa di Pandev allo svantaggio firmato da Calaiò. Sentiamo il commento di Mazzarri. Per dire che il Napoli doveva quest'estate ambire allo scudetto, non so da quale base siamo partiti, però tutti lo dicevate e io ho i miei dati, poi se non vengo ascoltato non lo so, i dati si sono presto a farli, il budget degli ingaggi di una squadra determina la griglia di partenza, se il Napoli è settimo nella classifica degli stipendi, in questo momento è settimo e sta facendo bene, l'anno scorso ha fatto delle cose straordinarissime, l'anno prima ancora, e quindi non si può pensare che l'eccezionalità tutti gli anni sia la regola, per me è così. Poi Walter, se si vuole guardare tutto da altri punti di vista, ditemelo voi. Dunque il budget invoca Mazzarri. Allora Franco Piantanini si è presa la briga di fare la classifica reale e la classifica della comparata, quella dei budget. Allora il budget del Napoli è il sesto, non il settimo, ma insomma più o meno ci siamo, e con un budget da sesto posto il Napoli è settimo. Però è evidente che una regola del genere, anche se in linea di massima rispettata, non lo so, esempio, la classifica dei budget vede in testa il Milan, il primo è il Milan, il secondo è l'Inter, la terza è la Juve, quarta Roma, quinta Lazio, sesto Napoli. Non è esattamente rispecchiata quella maniera, perché c'è Juventus, invece la classifica dice prima Juve, secondo Milan, terzo Udinese, quarta Inter, quinta Lazio e sesta Roma. Quindi è rispettata in linea di massima, ma entro certi limiti. L'Udinese, per esempio, che è il 14° budget della Serie A, è terzo. Se no, allora tanto varrebbe leggere la classifica dei budget, evitare di giocare e si assegna lo scudetto alla fine e si risparmia. Uno dei motivi di delusione del napoletano, al di là della folla napoletana, al di là del fatto che la squadra davvero sembra aver difficoltà ad ingranare, è che, e questo lo ricordo io per esempio, 25 anni fa quando Napoli vinse il titolo, l'anno prima con Ottavio Bianchi era arrivata terza, esattamente come con Mazzarri lo scorso anno, ma da quel terzo posto riuscì a fare il salto di qualità per vincere il titolo l'anno successivo e poi per piazzarsi due volte seconda e perdendo uno scudetto in maniera come minimo rocambolesca subito dopo averlo vinto. Quest'anno non sembra andare così. Abbiamo il tempo ancora prima dell'intervallo e prima dell'arrivo dei vostri interventi di sentire il dispiacere, direi come minimo, di Reja per una sconfitta davvero immeritata, perché al di là degli episodi, se parliamo soltanto della qualità della partita, a me pare che alla Lazio di ieri sera andasse stretto il pareggio, figurarsi perderla una partita così. No, non c'è Milito, mi sembra, fuori gioco, ma c'è Pazzini. Ci sono sicuramente degli episodi che sono da discutere, va bene, pazienza, comunque resta il fatto che abbiamo fatto una buona prestazione, purtroppo andiamo a casa senza punti che avremmo sicuramente meritato facendo una buona prestazione. L'Inter ha fatto un tiro in porta, insomma, diciamo quello del primo tempo, perché il secondo era fuori gioco, pertanto non l'ha fatto. Ed è riuscita a portare via col minimo sforzo tre punti che non meritava sicuramente. Difficile non essere d'accordo con l'analisi di Reja, tant'è vero che, come sentiremo subito dopo l'intervallo, il primo a essere d'accordo è proprio Ranieri, no? Che Ranieri è in genere, anzi lo è praticamente sempre, una persona corretta e leale. In un accesso di lealtà ieri sera mi pare che abbia addirittura rafforzato questo concetto di Reja. 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in realtà il ruolino del Milan nel giro d'andata, quindi non solo vittorie dopo le 2 sconfitte iniziali, ma anche i pareggi di Bologna e di Firenze, e questo introduce secondo me quello che al momento è il vero, con tutto rispetto per l'Udinese, che tra l'altro gioca sabato a Torino con la Juventus, quindi ha la possibilità di ricompattare quel minimo di distacco che nel frattempo ha subito. Dicevo che, con tutto rispetto per l'Udinese e pur tenendo presente la rimonta dell'Inter, insomma la sensazione di questo testa a testa tra Juventus e Milan nell'ordine mi sembra che si stia rafforzando. Quindi questo sarà uno degli argomenti che affronteremo oggi, che poi diventerà un leitmotiv, io credo, di stagione. Prima dobbiamo sentire quell'autocritica di Ranieri. Quella di questa sera non mi è piaciuta. No, non mi è piaciuta. C'è stato carattere, c'è stato orgoglio, però non siamo stati in squadra. La Lazio ha giocato meglio e noi soltanto per i colpi dei nostri campioni siamo riusciti a vincere. Naturalmente sono felice, sicuramente domani mattina lo sarò di più, però non sono contento di come abbiamo giocato. Eh beh, lo credo, effettivamente no. Sarebbe stato preoccupante essere contenti di come l'Inter ha giocato, senza trascurare però la voglia, no? la grinta, il carattere di farcelo ugualmente e di vincere una partita che sinceramente la Lazio, ripeto, avrebbe potuto rimpiangere se fosse finita in parità, figurarsi a perderla. Non c'è legalità, non c'è democrazia, così Zamparini e Cellino hanno abbandonato per protesta l'assemblea della Lega di A, che è chiamata a eleggere il vicepresidente, un consigliere, a gettare le basi per la governance, per le attività future. Verrebbe da dire che sono sempre i migliori che se ne vanno, se non fosse che poi tra quelli che restano ci sono, come dire, altri personaggi che alla qualifica di migliori potrebbero ambire, ecco, ma magari anche un po' alla lontana. Tra poco vi dicevo i vostri primi interventi in diretta. Sentirei ancora, per completare un pochino il panorama, la voce di Handanovic proprio a rappresentare l'Udinese. Abbiamo fatto bene questo girone di andata e non dobbiamo accontentarci e ripartire in modo giusto questo girone di ritorno, perché già sabato ci aspetta una partita molto difficile e noi dobbiamo continuare secondo me così e soprattutto fuori casa dobbiamo mettere qualcosa in più, perché secondo me siamo più squadra di fuori casa, però riusciamo a ottenere di meno, però finché vinci a casa è tutto a posto. In effetti soltanto la Juventus ha fatto un punto allo Stadio Friuli quest'anno, le altre, l'Udinese le ha vinte tutte, questo significa che avendo 38 punti in classifica ha oggettivamente un rendimento un po' deficitario fuori casa, un po' deficitario se parliamo di lotta per vincere il campionato, per il resto è un rendimento, mi pare, abbastanza normale. Sarà interessante in chiave friulana vedere quanto riuscirà a limitare i danni dell'assenza dei tre giocatori impegnati in Coppa d'Africa l'Udinese, perché se dovesse riuscire a restare più o meno agganciata in questo periodo e magari a portarsi in casa un rinforzo o due giusto per affrontare l'emergenza, che poi si ritroverebbe però anche nella normalità dei giocatori rientrati, forse potrebbero anche pensare di continuare a sognare. Massimo ha chiamato da Taranto, buongiorno. Sì, buongiorno signor Canesini, grazie per avermi richiamato. Due brevissime considerazioni. La prima rispetto al derby della scorsa settimana tra Inter Milano. Ho sentito alla sua trasmissione un sacco di telefonate di persone che dicevano: se non ci fosse stato l'errore di Abate sarebbe finito in pareggio. Allora io mi chiedo, come mai alcuni tifosi, cioè le persone normali, non vogliono considerare l'errore come un fatto normale che accade nel campo di calcio, come nella vita? Cioè mi sembra ogni volta assurdo, come se hanno la sfera di cristallo, riuscire a capire che magari quella partita fosse finita veramente in pareggio, o magari l'avrebbe potuta vincere anche il Milan. Cioè perché ogni volta l'errore di Abate? La seconda considerazione riguardo una vecchia diatriba che ci fu tanti anni fa alla Domenica Sportiva, se non sbaglio, tra Mazzola e Sacchi sull'involuzione e l'evoluzione del calcio. Io all'epoca stavo con Mazzola, cioè secondo me non è detto che si va avanti nel corso della vita e il calcio migliora sempre, come non migliorano altre cose della vita. Volevo sapere cosa ne pensasse lei, grazie. Penso che siano le classiche discussioni che lasciano il tempo che trovano, ma proprio lo lasciano completamente e non vedo dove ci possano portare. Ho trovato abbastanza, cioè, non so, vedo ieri Ranieri che sa benissimo lui quando l'Inter gioca male, no? Ed è il primo a dirlo. Quando nei giorni scorsi si è sentito dire che all'Inter sì ci sono i risultati ma lo spettacolo no, rinasce per la milionesima volta nella storia del calcio italiano il dibattito estetico tra, per esempio, adesso giustamente lei ricorda, adesso in tempi moderni sono i sacchiani o i sacchisti, ma Sacchi stesso come capofila a invocare l'estetica, la qualità eccetera, sono altri invece quelli che si affidano a un calcio più realistico. Se torniamo indietro di 50-60 anni troveremmo polemiche ancora più aspre, ma molto più aspre, tra e che allora tra l'altro chiamavano in causa o erano promosse addirittura anche dalla stampa sportiva, che era, me la lasci dire, oggettivamente un po' più qualificata di oggi. Basti pensare che da una parte del cartello c'erano, non so, i Chirelli e i Palumbo, quella che Brera chiamava abbastanza spregiativamente la scuola napoletana, che era favorevole al calcio, diciamo pure da un punto di vista estetico, mentre invece il calcio di sostanza era campeggiato da Brera. Da qui Brera alleato con Rocco, da là invece Bernardini e altri allenatori come punte di diamante di quell'altra filosofia. Sono discorsi vecchi, vecchi come il mondo, sinceramente, che ripeto, non mi pare spostino l'ago della bilancia. Antonello Salerno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, a proposito del discorso del Napoli di Maradona, il Napoli del terzo posto che poi l'anno successivo vinse lo scudetto, è vero, come giustamente ha citato lei, Garanzini, però va detto, c'è un piccolo particolare, c'era Maradona che da solo valeva una squadra intera. Ma c'era già l'anno prima Maradona, eh? C'era già i due anni precedenti Maradona. Però la differenza che era contornato da gente come Salvatore Bagni, Ciro Ferrara, Bruno Giordano e citerei anche il regista romano, che fu quello che fece fare il salto di qualità. Sì, che arrivò a novembre, quindi, campionato iniziale un romano, ma non è che quell'anno comprarono Xavi a novembre, comprarono Ciro. Sì, però era una squadra di campioni, Garanzini, attenzione, questa non si può considerare una squadra di campioni, almeno nella sua totalità. Ci sono sicuramente i tenori, ci sono l'attacco che è molto forte, ma noi abbiamo Antonello, io non ho fatto non ho come Aronica che ha 34 anni ma guardi che anche allora c'era Bruscolotti che era datato. Ascolti Antonello, io non ho fatto nessun paragone reale, vero, tra queste due squadre. Mi sono limitato a dire che prendere un terzo posto dello scorso anno e dire che potrebbe anche essere stato un uovo fuori dal cesto, no? come Mazzari sta cercando di dire, ma ovviamente per difendersi dialetticamente, come in fondo è normale che sia. Mi sono permesso di ricordare che altre volte, un'altra volta in particolare a Napoli, era andato così, che il terzo posto invece, quello dell'85-86, fu la base, il perno su cui si costruì poi lo scudetto dell'anno successivo. Chiederei un attimo di pazienza all'ascoltatore già collegato per quella lettera di cui vi ho parlato, che è arrivata già ieri in redazione, che è firmata Patrizio Ruffinoni e arriva da Bergamo. Io cerco di sintetizzarla perché è molto lunga. Le scrivo per raccontare l'altra faccia della partita Atalanta-Juve di sabato sera, che non ha trovato spazio sui media. Da qualche anno presto servizio allo stadio come steward, la mia personale cronaca inizia alle 19 quando arrivano i primi pullman coi tifosi juventini. Cori, bandiere che sventolano, tutto sembra andare nel migliore dei modi. Ma l'idillio dura poco, iniziano a volare i primi insulti, lancio di oggetti verso i tifosi atalantini che stanno entrando in curva sud, dove non ci sono solo ragazzi ma anche donne anziane e bambini. Bottiglie di vetro che cominciano ad arrivare. Fischio d'inizio regolare alle 20.45, non più di un paio di minuti, si vede fumo, ha tirato un fumogeno al settore ospiti e vedo due ragazzi dirigersi verso l'uscita che zoppicano e perdono sangue. Li segue un folto gruppo di persone, alcune di loro spaventate dalla parapiglia cercano riparo, eccetera. Un poliziotto alla richiesta di quattro ragazzi di intervenire rimane fermo, fa spallucce e dice io cosa ci posso fare? Mentre nel frattempo esplodono altri petardi o forse bombe carta. La Croce Rossa è il suo da fare, eccetera. Questa cronaca va avanti per un bel po', perché ripeto è molto dettagliata, sino a che cominciano incidenti più gravi in curva sud. Sempre più spettatori escono da questa curva, dicono che dal settore ospiti stanno lanciandoli tutti. Di tutto, alcune persone vogliono che interveniamo, altre vogliono far aprire i cancelli per potersene andare. Sono minuti di forte tensione, siamo 5 o 6 steward a dover potenzialmente contenere qualche migliaio di persone. Ecco, io qui comincerei a fare una riflessione, no? A proposito di stadi aperti. La situazione peggiora di minuto in minuto, le forze dell'ordine non ci sono in più, cerco di placare chi mi circonda, di fargli capire che ci stiamo muovendo, sempre più persone escono dal settore, vedo una ragazza piangente che esce col bambino, nel frattempo i poliziotti si schierano fuori dallo stadio, premi i cancelli quando mancano almeno 15 minuti alla fine, mentre normalmente l'apertura viene pochi minuti prima. Formiamo un cordone nel parcheggio, dietro di noi una quindicina di poliziotti in assetto antisommossa, qualcuno li applaude mentre si dirige verso l'uscita, bravi, ci avete lasciato massacrare. Poi massacrare in realtà non è successo. In ogni caso, sintesi di questo ascoltatore Stewart, oggi, cioè ieri, ho cercato sui vari quotidiani sportivi e non un commento, un minimo di cronaca di quanto accaduto, se non altro per sapere se i feriti tutti se l'erano cavata. Pochi accenni. Penso che sto facendo lo steward da 4 anni, questa è la peggior partita a cui abbia mai assistito e sto seriamente ragionando di non fare mai più servizio a moglie e figlia e non voglio rischiare per 40 euro. Come ogni giorno a quest'ora, all'intervallo borsistico, ho perlustrato la mail, ne ho selezionate due. Eugenio Enzo scrive da Bergamo: vorrei segnalare sabato a Bergamo scene di follia allo stadio, alla faccia della legge e della tessera del tifoso. Centinaia di bottiglie rotte, fumogeni e bombe carta con le famiglie che dovevano scappare e i bambini pieni di in preda al panico che forse non torneranno più allo stadio. Ci toglierei il forse, nessuno ne ha parlato nemmeno del dopo partita, le chiedo perché non le so rispondere, noi ne abbiamo appena parlato, infatti la sua lettera è di qualche minuto antecedente alla testimonianza letta prima. Andrea Borinelli scrive: ieri ho visto il secondo tempo di Arsenal Manchester United, solo il secondo perché prima ero fuori, ed è stato fantastico. 2 ore più tardi ho iniziato con molta buona volontà a vedere Inter Lazio e mi sono addormentato, ma sarà un problema di fascia oraria e di digestione, Andrea. Certo che il messaggio chiaro e il parallelo era facile da cogliere, insomma. Denis, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Allora, io volevo ricollegarmi al discorso del gioco dell'Inter. Sì. Praticamente si parla tanto dei risultati, ma non si parla del fatto che magari sono diverse partite che l'Inter non prendeva gol. Quindi non mi sembra che le altre squadre che giocano contro facciano tutto questo gran gioco per segnare. Che ne pensa? Ma penso che ieri sera abbia ragione Ranieri e basta, cioè che l'Inter ieri sera è stata... Ranieri mi pare poi che in un altro spezzone abbia detto così non si va lontano, ieri mi pare che abbia colto questo spirito, perché uno guarda l'elenco di questi risultati ultimi e ci sono tutti i sintomi di rimonta, no? con tutto quello poi di fascino anche passato che la cosa può comportare, però se uno vede la vittoria sul Milan, se uno indietro pesca qualche frammento, va bene, col Parma era più facile, ma insomma. E se poi uno arriva a Inter Lazio ieri sera, secondo me ha il diritto dovere di domandarsi che cosa c'è di buono da salvare di ieri sera, a parte il risultato. Poi il risultato è per l'appunto la cosa che conta di più, perlomeno secondo gli italianisti e i realisti. Poi ci sono quelli che hanno inventato il calcio come Arrigo Sacchi, in cui il risultato, come è noto, non conta. Luigi da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Una piccola considerazione relativamente a Mazzarri, che è pur bravissimo secondo me. Come la mettiamo se la classifica cerchiamo di farla guardando anziché i compensi dei giocatori quella dei tecnici? Perché non mi pare che lui sia molto attardato in classifica. Effettivamente perfida, lei chiama da Napoli proprio, Napoli città. Sì, sì. Poi una seconda che vuole essere un mio colpa riguardo la riunione in Lega. Anche io spesso finisco per criticare Cellino e Zamparini, che sono un po' folcloristici, però poi riflettevo, sono due presidenti che comunque hanno dato in questi anni alle loro società una certa stabilità economica, forse non nella guida tecnica, ma certamente nella guida societaria, e quindi forse qualche... sono meno cattivi di quel che pensiamo. E come diciamo, no, io contestavo che... personaggi di questo genere, con tutto rispetto per quello che hanno fatto e stanno facendo per Cagliari, Palermo, ci aggiungerei per Genoa, e parlo di Preziosi che addirittura dovrebbe rappresentare la Lega diventandone vicepresidente, io mi ponevo il problema del fatto che possano rappresentare il movimento calcio italiano, ecco, è lì che ho qualche dubbietto in più, ma... Per carità, tutte le opinioni sono valide. Mi è piaciuta la sua perfidia su Mazzarri. Paolo dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini, a tutti gli ascoltatori. Volevo semplicemente notare che magari da Juventus in questa campagna, questa invernale, magari si concentrasse un po' più sulla punta, dato che è lì che abbiamo maggiori difficoltà. Difesa e centrocampo stanno facendo un campionato fantastico. invece magari di prendere Marco Burriello, con tutto rispetto per lui, però magari concentrarsi gli sforzi economici su una punta. Lei cosa ne pensa? Ne ha talmente tante di punte la Juve che, insomma, che diventa difficile andare a prendere un po', andare a prenderne ancora. A me sembra che, e vale per tutte le squadre, più o meno per tutte le squadre del campionato, tolto l'Udinese che perde questi tre giocatori per un mese abbondante, a me sembra che tutte più o meno stiano abbastanza bene come sono, nel senso che non stiano abbastanza bene, la loro caratura europea è abbastanza modesta, no? detto tra noi, ma non è certamente con un acquisto a gennaio che cambi questa caratura e questo rapporto di forze. Io credo che se Tevez è il sogno proibito di tutte queste società, non sto parlando di Juventus ma insomma di tutte in generale, vuol dire che siamo combinati male, vuol dire che il mercato di raggiungibile sta offrendo davvero molto poco, se non troppo poco. E dato che poi innestare i giocatori in una squadra che sta andando bene, anzi benissimo, come la Juventus, è sempre un'incognita, ma insomma credo che ci si possa pensare più di una volta. È chiaro che se poi invece ci sono problemi di organico per infortuni, allora è un altro discorso. Il Milan ha dovuto correre i ripari, per esempio, facendo rientrare alla base i Merkel e gli Strasser e questi, perché c'era questa oggettiva moria di centrocampisti. Poi sarebbe anche carino provare, dato che ripeto con 90 probabilità su 100 sarà un testa a testa Milan-Juventus, perlomeno in partenza di questo girone di ritorno, stabilire qualche differenza, no, tra queste due squadre, perché per esempio i numeri che insomma vi ho letto prima dicono alcune cose ma altre le sottintendono. Per esempio la Juventus è imbattuta, che è un record di grande prestigio, mentre il Milan ha perso tre partite, che sono tante per una squadra campione in carica e che è la favorita per il titolo. Però è anche vero che nell'era dei tre punti perdere e pareggiare c'è poca differenza, la differenza vera è tra pareggiare e vincere invece, e quindi in realtà tre sconfitte del Milan, nessuno della Juve, ma un solo punto di vantaggio della Juve sul Milan. Se fossimo a 20 anni fa col campionato che non dà i tre punti per vittoria, il vantaggio della Juve sarebbe ben più cospicuo. Il diverso modo di raggiungere la porta avversaria, a parte che la Juve è la miglior difesa e il Milan è il miglior attacco, già questo dice qualcosa delle rispettive caratteristiche, ma insomma oltretutto il Milan ha un terminale come Ibrahimovic che ha superato il suo record personale con 14 gol in questo girone d'andata. La Juventus anche l'altra sera si è dovuta inventare Lichtsteiner e Giaccherini per andare in porta, quindi sono proprio due concezioni diverse. Terza e forse ultima differenza per il momento, anche se volendo ce ne sarebbero ancora, è quella degli infortuni, cioè il Milan è stato falcidiato da incidenti di ogni genere in questo girone d'andata, addirittura con i casi Cassano, i casi Gattuso che sono completamente anomali, no, rispetto a una routine calcistica. La Juventus invece fin qua è arrivata quasi imbattuta, però sta cominciando adesso a accusare un minimo di usura, visto che Pepe e Marchisio salteranno le prossime due partite, forse tre nel caso di Pepe. Alberto, Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Intanto la saluto, ed è sempre un piacere fare due chiacchiere con lei. Le volevo fare due domande. La prima è se secondo lei, come a mio parere, la Juventus potrebbe fare bene anche in Europa, non essendo a livello comunque di Barcellona, Reale e altre squadre, però potrebbe fare bene. E la seconda è se non le sembra venuto il momento, io sostanzialmente sarei contro Moviola in campo, ma guardando in questi giorni le finali del football americano, che è sicuramente uno sport diverso, ho visto che le squadre hanno la possibilità di chiedere una verifica all'arbitro su un'azione dubbia, e lo stesso arbitro per certi episodi può avvalersi della Moviola, togliendo ogni dubbio ai tifosi e alle due squadre, e il pubblico accetta di buon grado la sua decisione. Ecco, lo sapevo cosa la pensava, la saluto, arrivederci. Grazie a lei Alberto. Guardi, non saprei trovare parole migliori di quelle che mi ha scritto un ascoltatore pochi giorni fa, proprio in seguito a questa a questo rifiorire di appassionati del football americano. Non vorrei sprecare con poche parole non così improvvisate, non ben preparate, quello che invece un ascoltatore ha scritto nei giorni scorsi impeccabilmente. Domani il tempo di rintracciare questa mail in un pacco che non vi dico, e domani provvederò. Maurizio da Verona, buongiorno. Dottor Galtini, buongiorno. Niente, io la chiamavo a riguardo tutte quelle trattenute che ci sono in area, no? Specialmente ieri in Atalanta Juventus, l'altro giorno, sono state parecchie. Secondo lei, volevo chiedere una sua opinione, invece di che l'altro, invece di andare ad ammonire i giocatori che stanno facendo, diciamo, questi piccoli fari, queste piccole trattenute, dasse una punizione a due in area, non sarebbe più meglio? Non sarebbe più. Vabbè. Sì, punizione a due in area, ma addirittura calcio di rigore. Io credo che all'estero succede una volta ogni tanto in una partita anche di grande prestigio, di grande combattività, succede una volta ogni tanto, ma non in tutte le partite, di vedere che l'arbitro, quando sta per partire una traiettoria, ferma un attimo il gioco e invita due a non trattenersi, a non cose, eccetera. Da noi, se si dovesse badare davvero al regolamento, andrebbe fatto su ogni calcio d'angolo e su ogni punizione, dato che non serve, perché poi continuano a trattenersi come è peggio di prima. Forse bisognerebbe cominciare davvero con dei calci a due in area, con dei calci di rigore, ovviamente con dei calci di punizione a vantaggio della difesa, se a spingere a trattenere è stato l'attaccante o è stato per primo l'attaccante. Potrebbe essere una cura, perché effettivamente così andare avanti così è sempre più sgradevole, come minimo. Sgradevole mi fa venire in mente Balotelli, ma forse sgradevole è inadeguato come aggettivo per Balotelli. Darei subito spazio a Nicola Filippone e alla sua rubrica dedicata oggi, ovviamente, alla data, quindi al 23 di gennaio. Sembra ieri. 23 gennaio 1974. Davanti a soli 20.000 spettatori, l'Inter conquista per 1-0 un derby valevole per il girone di semifinale di Coppa Italia. Decide un colpo di testa di Boninsegna. Ma non è una fase favorevole per nessuna delle due squadre milanesi, reduci da brutte sconfitte in campionato, tanto che i giornali avevano presentato la sfida come il derby delle deluse. Quella del 23 gennaio 1974 è anche l'ultima stracittadina che vede in panchina Elenio Herrera. Il mago, rientrato all'Inter dopo 5 stagioni a Roma, sarà colpito pochi giorni dopo da una crisi cardiaca e lascerà l'incarico di tecnico a Enea Masiero. Banti, l'arbitro di Juventus-Roma, il quarto di finale che apre domani sera la serie dei quarti, che continuerà poi mercoledì e giovedì per arrivare alle quattro semifinaliste. Banti di Livorno, Juventus-Roma, vi ricordo, partita già esaurita, cioè c'è già il sold out al nuovo stadio della Juventus, segno che conferma una volta di più che c'è una grande voglia di Juve, no, tra il pubblico, evidentemente, perché adesso senza paragoni impietosi con i 1900 spettatori di Milan Novara di Coppa Italia della settimana scorsa, ma insomma avere un esaurito di circa 40.000 spettatori per una partita di Coppa Italia in questi anni sinceramente non è una cosa da tutti i giorni. Vi dicevo di Balotelli, immagino che sarete tutti o quasi tutti al corrente di cosa ha combinato ieri, però ve lo faccio riassumere da Giulio Torelli, dalla sua mail. Entra al 76esimo di un match decisivo e fa il Balotelli a 360 gradi, cioè si fa prima stupidamente ammonire per un inutile fallo. Poi si inventa una giocata e si procura un rigore che trasforma con una freddezza figlia della sua totale incoscienza complessiva. La sua esultanza è come avesse segnato l'8-0 in un torneo dei bar, peccato che in mezzo abbia scalciato meschinamente un avversario a terra. Questo è Balotelli, che resta una mina vagante per compagni, avversari, arbitro in ogni istante del match. A mio avviso, spero che il suo colpo di tacco all'indietro, che è stata una vigliaccata, sia punito severamente dalle autorità del calcio inglese. Luca da Napoli, buongiorno. Salve, Garanzini. Dica. Allora, innanzitutto mi complimento per il suo stile asciutto, è molto essenziale, mi piace molto. Allora, Milan, innanzitutto volevo chiederle, non ritiene che ci possa essere anche una responsabilità dello staff atletico in questa continua ripetitività di infortuni? È il secondo anno, al momento decisivo della stagione, ci ritroviamo con il centrocampo completamente fuori uso. Seconda domanda, io penso che la strategia di Galliani sia quella giusta, pur non avendo la capacità di riprendere il vecchio filo delle giovanili. In questa ottica, tra elementi come Mazzoli della Fiorentina o Galloppa del Parma o Padoin dell'Atalanta, chi si sente di suggerire meglio nello scacchiere di Milano attuale? Grazie. Luca, io la ringrazio per le sue belle parole, ma non mi sopravvaluti. Hanno preso Strasser, Mesba, hanno 40 centrocampisti in casa, di cui 38 infortunati, non mi ritengo assolutamente all'altezza. Ma né per il Milan né per nessun'altra squadra. Già faccio fatica ad avere qualche opinione sul presente e su quello che vedo, si immagini sulle proiezioni future. Secondo lei il fallo sul giocatore del Chievo al 93esimo era rigore? Ma certo che era rigore, però non vedo quale sia il problema. Mi interessa di più quest'altro messaggio invece, che dice: Filippone interista in malafede, glielo metto da parte, glielo consegnerò con grande piacere, perché sì, Nicola Filippone credo sia nato con lui è nato già col ciuccio, essendo il ciuccio il simbolo del Napoli, il ciuccio in bocca l'aveva già al momento della nascita, io credo, proprio quando è fuoriuscito, no? Quindi interista in malafede lo trovo leggendario, chiunque sia l'imbecille che lo ha spedito. Mirko dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garantini. Volevo fare una considerazione. Sì. Facciamo onore e gloria alla Juventus che sta facendo un campionato sopra le righe. Però vorrei rimarcare una cosa. In queste prime giornate, qui a parte il campionato, ha avuto abbastanza di fattori positivi a suo favore. Parlo ad esempio della prima giornata di campionato con l'Udinese, che è stata rimandata quando l'Udinese era le prime giornate le ha vinte tutte, per cui, e la Juve era in fase di assemblamento, probabilmente se giocavano non andava tanto per la quale. Poi nel ritorno si trova l'Udinese senza tre giocatori. Leggende. Sì. Contro il Milan l'ha trovato nel periodo peggiore della squadra rossonera, lo stesso anche per l'Inter nel periodo più buio. Cioè, con le fortune e le glorie una squadra deve cercarsele, e se le ha vuol dire che ha gli attributi per farlo. Però guardando, sì, dovrebbe la prossima volta mi faccia un nesso tra la gloria e gli attributi, perché non sono riuscito sinceramente a metterle insieme. Che le fortune ce le ha chi va in cerca per averle, non è che gli capitano addosso, bisogna anche darsi a cercare le fortune. E se tu sei bravo, preparato e corri, e poi la fortuna ti viene anche addosso, quindi ecco. questo è un po' il mio principio. Per cui come ad esempio se non si cerca è la sfortuna, idem. Volevo solo fare questo nesso, ecco, sì, che sì. Ha trovato guardi, è quella famosa sintesi: la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo, no? Mi sembra potremmo completarla così. Mirko, grazie. Giuseppe dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Mica. Senta, mi permetterei di suggerire per quanto riguarda gli stratonamenti in area. Sì. Poi voglio sentire anche il suo parere. Perché l'arbitro non interviene e prende i due e dice adesso momentaneamente andate fuori, finisce l'azione e rientrate? Sì, vale tutto Giuseppe, guardi, io sono qua che sto, devo andare a lezione di football americano, no? Perché sono due settimane che stanno gonfiando i microfoni con il football americano e con questo leggendario sport dove l'azione più lunga dura circa 11 secondi, no? Ma proprio quando dura una follia. E pensare di applicare qualcosa che funziona per uno sport in cui l'azione più lunga è 11 secondi a uno sport dove invece quando è giocato veramente bene la palla non esce mai o quasi mai, è uno dei fascini di questo sport, cioè del calcio, è proprio, no, la durata che può avere un'azione, la controazione, la ripartenza ancora. Però insomma, visto che c'è questa moda di sommare pere con mele e mele con cachi, va bene così. Ricominciamo domani, grazie a Franco Piantarini in redazione, a Fabio Cantadori in regia, buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport.